Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e saluto nuovamente Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Un saluto a te Francesco e a tutti gli amici in ascolto. Beh, allora Gianluca, raccontiamo un'altra delle molte vicende che capitano all'Adico e che adesso tu Gianluca ci racconterai. Sì, siamo sempre nell'ambito della fornitura quindi di energia elettrica e di gas. Sappiamo che ci stiamo avvicinando a piccoli, grandi passi verso il mercato totalmente libero, sparirà il mercato tutelato dal 2019, e però possiamo dire che le aziende sono già scatenate a caccia di possibili futuri clienti. In questo mercato, purtroppo, noi come associazione non possiamo far altro che rilevare dei tantissimi comportamenti scorretti da parte dei venditori stessi. Le abbiamo già raccontati alcuni. Quello che ci è successo l'altro giorno è il classico esempio che vale per tutti, nel senso che è un esempio inquietante. Qua siamo nella zona di Dolo, una provincia di Venezia. Una persona molto anziana apre la cassetta delle lettere, apre la busta e si trova una lettera che la inquieta, perché quella lettera è indirizzata direttamente al marito Carlo, e in quella lettera si dice, la lettera è una lettera di un'azienda, di Enel Energia, e nella lettera praticamente ci si congratula con il marito della signora che ha aperto la busta per aver stipulato in data 31 luglio il contratto telefonico con Enel Energia, quel contratto che la donna si ritrovava in mano in quel momento. Il problema grosso è che però questo contratto telefonico stipulato teoricamente il 31 del 7 da questo signor Carlo Alavò è un contratto palesemente fasullo, perché il signor Carlo Alavò purtroppo è deceduto 4 giorni prima, esattamente il 27 luglio, all'età di 88 anni. Chiaramente la madre, la signora anziana, ha chiamato subito il figlio Giuseppe, un 50enne operaio metalmeccanico, che ha voluto subito capire la situazione, ha letto la lettera, è rimasto inquietato, anche perché Francesco stiamo parlando di un contratto stipulato con una persona deceduta e stiamo parlando di persone che comunque stavano elaborando il lutto da pochissimi giorni. Certo. Ha chiamato il call center e qua ha cominciato già a sentire le prime risposte imbarazzate. C'è stata la conferma di un contratto a loro nome, però diciamo che dal call center a un certo punto la signorina che ha risposto per giustificare ha detto: attenzione, il contratto in realtà è stato stipulato telefonicamente dal figlio dell'uomo, da Filippo Alavò. Al che questa persona che aveva chiamato, che era esattamente il figlio dell'uomo e che si chiamava Giuseppe, gli ha spiegato che non poteva essere così, perché in famiglia c'è solo un figlio maschio, lui si chiama Giuseppe e non Filippo, e comunque non ha mai stipulato alcun contratto a livello telefonico. Qua chiaramente siamo a livelli di truffa, e per cui c'è stata anche una denuncia, querela alla polizia, oltre ovviamente al nostro decisissimo intervento, tramite il quale cercheremo di risolvere intanto in via stragiudiziale la questione. Però è chiaro insomma che ci siano anche dei connotati penali. Teniamo presente anche che l'uomo si è rivolto anche al punto Enel, l'unico aperto in zona che è quello di Mestre attualmente, sì, in questo periodo di ferie. Anche qua ha ricevuto una risposta che ci lascia molto perplessi, cioè dal punto Enel gli hanno detto che non potevano dargli la registrazione della telefonata del contratto, cosa che invece sono obbligati a fare. Ecco, Francesco, è un racconto inquietante. Ricordiamo una cosa: noi abbiamo parlato di energia. Queste ditte, queste grandi ditte, non sono loro direttamente che vanno a cercarsi, a procacciare i clienti, ma affidano a delle ditte esterne questo compito. E questa può essere un po' una giustificazione, diciamo, che porta un po' fuori, fa diminuire la responsabilità di, in questo caso, di Enel Energia. A nostro avviso le responsabilità ci sono e sono palesi, perché Enel Energia deve controllare l'operato dei propri committenti, proprio sapendo che in questo periodo sono decine, centinaia, migliaia, probabilmente in tutta Italia, le segnalazioni che arrivano ad associazioni come le nostre, riferite appunto a venditori porta a porta che vanno a vendere appunto contratti telefonici di energia elettrica e di gas, oppure call center che chiamano a casa e che molto spesso, con abili, chiamiamoli così, raggiri, strappano dei contratti magari per niente convenienti o addirittura non esistenti, soprattutto a persone molto anziane. È una situazione davvero odiosa. Certo, che abbiamo raccontato più volte, e come abbiamo sempre detto, di evitare fare contratti attraverso il telefono, ma piuttosto fatevi mandare il cartaceo, con calma ve lo leggete, ve lo studiate, lo confrontate con altre offerte e poi decidete tranquillamente a chi affidare la gestione della vostra energia, del vostro gas e quant'altro. Grazie come sempre all'Adico, che ricordo ha un sito importante da vedere, www.associazionedifesaconsumatori.it, dove poi lì trovate anche i contatti telefonici per chiamare l'Adico. Grazie a Gianluca Codognato, non ci sentiamo martedì prossimo perché è Ferragosto, quindi buon Ferragosto, l'appuntamento è tra una settimana. Grazie Francesco e buon Ferragosto anche a te. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.